Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 17 maggio 2015. Gli orti idroponici in città, modello di agricoltura contro la fame. L'indirizzo lo ha dato la FAO a più riprese negli anni scorsi e ora i progetti di agricoltura su solido stanno dimostrando la loro efficacia, in particolare nelle aree urbane. Nonostante la crescente urbanizzazione della popolazione mondiale, che secondo le stime dell'Organizzazione ONU dovrebbe raggiungere l'80% del totale entro il 2050, l'agricoltura su solido e in particolare le colture idroponiche di ortaggi stanno contribuendo a contenere la domanda di cibo. Lo dimostrano i progetti lanciati anche in molti paesi in via di sviluppo, non più tentativi isolati, ma grandi piani rurali urbani. Gli orti idroponici, infatti, garantiscono una resa più elevata, una migliore gestione della risorsa acqua e persino il riutilizzo di rifiuti solidi urbani, come le bottiglie di plastica. Fin qui la notizia del 17 maggio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Secondo la FAO, le colture su solido sono una strada da battere contro la fame. Giorgio Prosdocimi Gianquinto, docente di orticoltura all'Università degli Studi di Bologna, coordina una serie di progetti per colture su solido in paesi in via di sviluppo. Noi siamo un po' più piccoli della FAO, ma anche noi nel nostro piccolo, nei nostri progetti, in alcuni progetti, tra cui in Costa d'Avorio, collaboriamo proprio con la FAO, promuoviamo moltissimo questi sistemi fuorisuolo, semplificati, che ce ne sono tantissimi, perché si va da delle colture in sacco a delle colture dentro le bottiglie riciclate, dell'acqua minerale, per dire, quindi è un sistema anche di riutilizzo di materiale che altrimenti, come dire, è un inquinante o comunque va a finire in discarica, eccetera. È un sistema che va benissimo negli ambienti urbani, perché si svincola dal terreno, quindi non abbiamo bisogno di avere né terreno fertile né terreno punto, cioè possiamo farlo sui tetti, sui terrazzi, sui cortili, in mezzo alle pietre. Non abbiamo bisogno di grandi superfici, perché appunto la densità di piante è molto maggiore rispetto a un orto tradizionale, la produzione è molto maggiore sia per la densità di piante, ma anche perché i cicli produttivi sono accelerati, cioè si produce molto più rapidamente, quindi invece che fare 2 o 3 colture all'anno se ne fanno 4, 5, 6. Però vanno molto bene anche per gli ambienti rurali in realtà, soprattutto quando ci sono donne che già lavorano per la casa, per la famiglia, fanno tante cose. Avere sistemi di questi tipi facilita la produzione orticola, che facilita il consumo di ortaggi, che sono, dopo i carboidrati, che sono il zoccolo duro, sono al secondo posto insieme alla frutta nella piramide alimentare come importanza, no? È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.